Benvenuti a IAM, magazzino esistenziale. Ma si può dire anche a IAM? Sì, certo. Qui troverete risposte ai vostri dubbi, dubbi per mettere in crisi le vostre certezze, certezze con dentro residui di dubbio. Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio, sesamo e soia. E luce, soprattutto luce. Luce per le vostre notti buie. Ma che cos'è questa vita? Che cos'è? Lo chiedi a me, mentre io lo chiedo a te. Ma che cos'è la bellezza? Che cos'è? Non so perché, questa sera so cos'è. Yeah! Buonasera e benvenuti, o bentornati, nel magazzino esistenziale, il nostro piccolo laboratorio alchemico metropolitano, il santuario del dubbio e della ricerca, un podcast per gli indomabili. Io sono Valerio Grut, il vostro accompagnatore, il titolare dello spazio, che occupo assieme ai fidati commessi Eleonora Negrisoli, Ludovica Pasca e Matteo Polonara. Poesia, musica, persone. Per toccare il fuoco dell'esistenza. Siamo qui e ci domandiamo che cos'è la vita. E che cosa c'è di più interessante da chiedersi in questo tempo, nell'era della gran confusione? Penso che sentire l'energia della vita, percepirne dentro e nelle cose del mondo la forza, sia l'unico modo per vincere la morte quotidiana, l'immobilità, la depressione. Quindi ascoltiamo il primo brano e subito dopo scopriremo l'ospite di oggi. Thank you. Dopo l'incontro con Guidalberto Bormolini, monaco e tanatologo, e poi con Marco Guzzi, filosofo e poeta, abbiamo oggi con noi un musicista. Ho ascoltato per la prima volta Vincenzo Vasi per caso, dal vivo, e ci ho messo poco ad innamorarmene. Appare come un essere fantastico venuto fuori da un bosco notturno o appena sceso da una navicella spaziale. È un musicista geniale, dadaista nel profondo, tra i più noti suonatori di Theremin. Ha collaborato con Vinicio Capossela, con Roy Paci ed altri. Insieme a Valeria Sturba compone il duo Opo Poio. Sono molto felice di ascoltare insieme a voi il suo contributo. La vita. Cos'è la vita? Beh, potremmo dire che vita è energia. Energia che prende forma e si muove, si trasforma. Ma questa energia da dove arriva? Chi è che la muove? Questo non lo sa nessuno. E poi chissà se la vita sta nella vita, poi sta nella vita o sta nella morte la vita. Che ne sappiamo noi? Se questa cosa qua che noi diciamo che la vita è veramente la vita, oppure la vita è di là, quando moriamo, che c'è una roba che senti tutte le scintille che partono e fanno, quindi non possiamo sapere. Però di quello che c'è qua, di questa vita qua, della nostra vita, beh, è che ormai che questa cosa qua che si prende, che sono cicli, si cambia. Non so, c'è questa canzone qua che dice, no, la vita è un ipertesto, ogni azione è un pretesto per trasformarla, interpretarla, cambiare direzione. Ecco, boh. Thank you. Grazie a Vincenzo Vasi per l'ironia, la leggerezza e la densissima forza esistenziale del suo intervento. Il brano che avete ascoltato dopo il suo intervento è appunto degli Opopoio, tratto dall'album Elettromagnetismo e Libertà. Dunque, un incontro un po' diverso stasera, no? Non vi pare, ragazze? Eh sì, ci siamo molto stupiti di questo intervento. Un altro modo di pensare ancora, no? Mi piace molto l'idea di vita come energia che trasforma tutto e tutto connette anche. E come suoni anche i suoni che sono stati usati, no? A me piace molto l'idea dell'approccio, nel senso che abbiamo avuto una persona, diciamo, religiosa, quindi Bormolini, Guzzi che è un filosofo, quindi ci hanno portato in questa maniera, no? Nella domanda, rispondendoci ci hanno portato nella domanda, e questa volta Vincenzo Vasi lo fa proprio invece da artista, anche da musicista appunto, no? Come dici tu, dei suoni, cioè ci dà una risposta che ha la sua forza anche in qualche modo proprio nell'interpretazione e nella musica. Sì, nella musica e nel sentire forte la domanda che possiamo trovare qualcosa della risposta, che spesso è indicibile, no? Soprattutto per la nostra domanda, che come diceva Bormolini nel primo intervento, è la risposta più facile, più difficile che si possa avere. Bene, allora, Ludovica, siamo arrivati al momento, diciamo, del tuo intervento musicale, quindi che cosa ci fai ascoltare stasera? Questa sera vi faccio ascoltare un brano di Damien Rice che si chiama Older Chest, e è esattamente 20 anni dalla pubblicazione dell'album che contiene questo brano, e che però ascoltavo nei giorni scorsi e pensavo proprio che non smette di sorprendermi in qualche modo, proprio per questa bellezza nuda che ha, semplice, proprio disarmante. E quindi questo qui. Chests reveal themselves like a crack in a wall, starting small and growing time. We all seem to need a help of someone else to mend that shelf of too many birds. Read me your favorite line. Papa went to other land and he found someone who understand the taken and a western man's need to cry. He came back the other day, I know. Some things in life may change, and some other things they stay the same. Like time, there's always time on my mind. So pass me by, I'll be fine. Just give me time. Ooh. All the gents sit on a fence with with her cap in hand, looking grand. They watched their city change, children's screams, or so it seems, louder than before. Out of stores and shores with bigger names, Mama tried to wash their faces, but his kids, they lost their graces, and Daddy lost ever races too many times. She broke down the other day, and you know, some things in life may change, and some other things, they stay the same. Like time, there's always time on my mind. So pass me by, I'll be fine. Just give me time. Like time, there's always time on my mind. So pass me by, I'll be fine. Just give. Grazie Ludovica, bellissimo il pezzo e anche l'interpretazione. E la puntata di questa sera, l'intervento di Vincenzo Vasi, le musiche, non lo so, mi portano un po' in quello spirito delle avanguardie storiche del Novecento, e alla vivacità di chi cerca in tutte le cose una risposta, e anche a Carmelo Bene, che legge Friedrich Hölderlin. Non mi chiedete perché. Ma mi piace l'idea di riascoltarlo insieme. Ecco, l'audio viene dall'archivio CB, che ringraziamo. Dio Tima. Dio Tima. Quando ci rivedremo noi, millenni me ne andrai. Tra gli astri vestirei le fogge tutti i linguaggi della vita per incontrarti una volta ancora. Trovai presto i nemici e dei russi combattenti al mio fianco in brevi istanti. Restò non uno. Solo, in tutta fierezza, io buttai la mia vita ai barbari, come un soldo a un mendico. Non mi vollero, quasi che temessero farmi del male. Molto perduto in questo mio alabanda, una tempra romana come questa, io non l'ho più trovata. Iperione, il mio tempo è finito, altro a me non rimane. Una nobile fine. Sì, muori, muori. Il tuo cuore è abbastanza magnifico. La tua vita è matura come i grappoli d'autunno. Alla banda! Alla banda! Io voglio

dell'universo. Ringrazio Eleonora, Ludovica, Matteo e chi è in ascolto. A presto.